Na na na na na na e Giuditta. Ormai ogni volta che ascolto questo pezzo dei Beatles non può non venirmi in mente la versione fatta da Ariele e Frick Anthony nel loro Pane, Burro, Rock and Roll. Ma non corriamo. Questo è ancora l'Early Bird Special, anzi è appena iniziato. Io sono Chuck Bird e staremo insieme fino alle 7. Abbiamo iniziato alla grande con i Beatles, Hey Jude, e proseguiamo ancora con Emerson, Lake and Palmer, Oh Down! Forza ragazzi, sveglia! Non è proprio il caso di indugiare. Si dorme troppo, lo dico sempre io. Ma sapete che l'uomo spreca dormendo un terzo della sua vita? Se vive, diciamo, fino a 75 anni, significa che ha dormito 25 anni. E sapete cosa significa dormire per 25 anni? Significa alzarsi con un gran mal di testa e una gran voglia di andare in bagno. Questa è una delle mie battute del mattino preferite. Cinderella per voi e solo per voi con Don't Know What You Got. Cinderella, l'Early Bear Special. E tra i grandi ospiti di questa mattina ci sono anche i Genesis, che a dispetto del grande successo che riscossero in Italia, non è che fossero così famosi nel resto del mondo. Anzi, il primo album a scalare le classifiche fu Foxtrot, grazie a Supper's Ready, il pezzo da 23 minuti che divenne il centro delle loro esibizioni live. Il momento di svolta della loro carriera fu proprio il concerto che i Genesis tennero a Rainbow di Londra nel febbraio del 1973. La rivista inglese Melody Maker, che prima dell'evento aveva previsto uno spazio di un quarto di pagina per raccontare la cronaca del concerto, decise di dare ai Genesis la copertina e dedicare alla band un articolo di ben 4 pagine. Nell'ottobre del 1973 uscì il quinto album della band, intitolato Selling England by the Pound, che funzionò benissimo anche nelle classifiche americane. Steve Hackett, il chitarrista della band, ricorda che John Lennon, in un'intervista rilasciata a New York, disse che i Genesis era una delle poche band che amava ascoltare. Steve Hackett, che era stato accusato di essere solo una vecchia scorreggia del rock progressivo, aveva finalmente la sua personale vendetta contro i detrattori che per anni avevano buttato fango contro i Genesis. Eccoli i Genesis, proprio con un brano dal loro fortunatissimo Selling England by the Pound. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way. Rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the dilly fair. The scene of death is lying just below the cuts off the town from view like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed a waterfall is madrigal and symphony. Na na na na na na na. Our dino songs urge the same song till used by the side. Thank you. Progressivo a manetta questa mattina. Bene, bene, bene, so che vi piace. So quanto mi piace il caffè nero bollente. E anche Cherie sa di questa mia debolezza. E in questo momento lei mi porta la mia tazza di caffè nero bollente. Senza di te, questo Early Bird Special non sarebbe la stessa cosa. Thank you, Cherie.